responsabile di questo posto romano dell'Università di Ulm. Vi do il benvenuto facendo le veci assolutamente in maniera inadeguata del professor Puglisi, che si scusa con tutti voi e tutte voi perché un contrattempo di natura sanitaria non viene lontano da qui, ma ci teneva a salutarvi e soprattutto a dare il benvenuto a Nicoletto Mandarano, nostra docente sia a Milano che a Roma, che oggi ti ringraziamo per averci scelto per questa presentazione della sua ultima fatica al digitale per i musei. Grazie Nicoletto di essere qui, grazie Antonella Strilli e Antonio Pavolini che chiacchiereranno con lei e con voi. Grazie a tutti voi di aver sfidato questo po' di maltempo che ci ha stupiti e di essere qui così numerosi e numerosi. Vi do subito il via ai lavori, ricordandovi solo, perché nelle presentazioni va fatto, che l'editore Carocci è qui, ringraziamo per essere qui, e che quindi ci sono anche i libri che sono anche acquistabili all'ingresso da dove siete passati alla reception. Purtroppo con tanti mi dicono perché il POS è alla fiera, libri più liberi, e quindi è andata in questo modo. E al termine siamo così contenti di avervi qui che vorremmo fare un brindisi per questo bel libro, per cui poi vi aspettiamo nell'altra sala. Grazie, grazie Marta, e in questa strana cosa comincio io. Cioè, se riesco a rompere un po' l'emozione, perché obiettivamente una platea di amici, colleghi, ma persone sostanzialmente a cui io voglio molto bene e che mi vogliono bene, ci sono anche parecchi studenti e ci sono anche tante mie ex allieve che sono adesso diventate responsabili di settori di comunicazione di vari luoghi, e questa cosa mi fa molto piacere. Allora, parto un po' al contrario. Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, ma vorrei dire due cose all'inizio. Uno, ringraziare Ulm per avermi ospitato in questa presentazione. Io insegno qui al Master Romano, Master Marac di Ulm, e insegno anche a Milano, e mi è sembrato un posto, diciamo, un luogo naturale in cui presentare questo libro, anche perché per loro insegno qui comunicazione digitale, a Milano social media communication, quindi diciamo che era il posto più adatto. E poi devo ringraziare, oltre a tutti voi che siete qui, e poi lo farò uno per uno perché adesso è un po' complicato, come sentite dalla voce, volevo ringraziare Anna Casalino, che è la mia editor, perché questi due libri, tutti e due, il primo e questo secondo, non sarebbero probabilmente esistiti se non mi avesse rintracciato per un motivo molto curioso. Lei mi inseguiva e io svicolavo perché pensavo che mi dovesse chiedere una cosa relativa alla comunicazione. Questa cosa fa molto ridere perché io pensavo lei mi cercasse per fare il sito web di Carocci, quindi io non rispondevo alle telefonate. Questa è una roba veramente assurda, e poi insomma alla fine mi ha trovato. E questo libro, adesso ne parleremo, in realtà volevo solo dire una cosa: ha avuto una vita un po' complicata, che ha seguito la mia vita complicata negli ultimi anni, perché è nato all'inizio del 21, quindi ormai parecchio tempo fa, subito dopo, come molti di voi sanno, e non è un mistero, ho avuto una diagnosi di cancro non proprio felicissima, che mi ha tenuto lontano da questo libro. Avrei potuto odiarlo, invece l'ho amato tantissimo quando sono riuscita a rimetterci le mani. Poi in realtà è andato tutto molto veloce, e i miei dialoghi con Anna erano sempre tipo: però l'indice non funziona, poi la guardavo e dicevo: ma non mi dici niente? E lei mi rispondeva: ma tanto, qualsiasi cosa ti dico, poi alla fine l'indice lo deciderai tu, comincia a riscrivere e verrà tutto perfetto. E così probabilmente è stato. E a dialogare con me su questo libro ci sono Antonella Sbrilli, che oltre a essere professoressa di storia dell'arte contemporanea in Sapienza, è persona che conosco da 30 anni, siamo risalite prima, e in realtà l'ho conosciuta per una per una cosa curiosa, perché lei cercava una persona che inserisse i dati di un libro, Il gioco dei giorni narrati, all'interno di un database. Nessuno lo sapeva fare, io lo sapevo fare, e così ci siamo conosciute ed è nato questo legame che poi ci ha portato a fare tante cose insieme. E Antonio Paolini, che invece ho conosciuto molto più di recente, e in realtà gli raccontavo prima, io avevo comprato per caso un suo libro alla biblioteca alla libreria dell'Auditorium, e poi, avendolo trovato su Facebook, ho provato ad entrare in contatto con l'autore e l'autore mi ha risposto subito in modo entusiasta, e poi mi sono ritrovata citata in un suo libro, e quindi alla fine ci siamo anche conosciuti di persona. Il potere dei social, a volte, che non sono poi così male, a volte. Adesso io lascerei la parola ad Antonella per iniziare. Buonasera, grazie Nicolette. E io vorrei cominciare presentando Nicolette, perché nell'autrice, come dice, sì, le righe in quarta di copertina, dice insomma una parte di quello che è Nicolette, che è della sua formazione, della sua professionalità e del suo tipo di ricerca. Ma Nicolette è anche, appunto, è ancora molto a fare delle memorie personali, per carità, insomma, però effettivamente lei ha una laurea in storia dell'arte moderna e credo che anche abbia una specializzazione in iconologia, cioè l'iconologia, quindi lo studio delle immagini, dei significati e delle relazioni. Ho letto un articolo di recente sull'iconologo che è un connecteur, no? Invece non solo è connesseur, no? Un connettore, ma è qualcuno che connette vari elementi che sembrano lontanissimi, che a volte anche strani, no? E quindi lei ha una formazione, dice, ovviamente storico-artistica, molto forte, ecco, ma anche questa attitudine a mettere vicine delle cose, collegarle, ecco, appunto connetterle. Era fatale che all'inizio degli anni 90 la parola connessione, tradotta in inglese, resa forse meno più tecnica e meno risonante, andasse a finire nel link, no? Quindi nel linguaggio dell'ipertestualità. Quindi lei è stata una delle prime anche allieve dei corsi di storia dell'arte della Sapienza, ma non so, forse anche di altre università. È stata molto precoce il suo approccio, il suo interesse, che non ha trovato nessuna contraddizione tra studiare la storia dell'arte, approfondire una monografia di un artista del 600, girare per musei cercare di capire in che modo questa nuova struttura del linguaggio, questo nuovo paradigma che connetteva prima testo, poi testo immagini, poi testo immagini, immagini in movimento e poi anche le persone, ecco, potesse essere in modo proficuo inserito, connesso. Non sono due strade differenti, come purtroppo invece poi si tende a fare, perché certamente è più comodo, forse anche più professionale, uno si specializza in una cosa, uno si specializza in un'altra, si cerca di dialogare. Mentre invece, insomma, il dialogo può avvenire quando dentro la stessa persona ci sono coefficienti anche diversi, non è che non deve essere un ingegnere informatico, né deve essere l'altro un direttore di museo, però ecco, a volte non ci sta proprio il liquido dei vasi comunicanti, non arriva al punto, no? di passare. Quindi, insomma, Nicolette Mandarano è questo anche, è una storica dell'arte che ha proprio dall'inizio, proprio dagli anni 90, quindi insomma era proprio giovane, traghettato assoluto verbo, ma insomma trasportato e integrato l'idea di connettere culturalmente sulla base della conoscenza con la tecnologia, è vero? Va bene, questo non mi posso andare avanti. E chiedo conferma alla diretta generale. E quindi poi dopo lei si è veramente formata e anche autoformata, perché non erano epoca ancora, ora per fortuna ci sono corsi di laurea, insegnamenti, master, ma allora insomma era molto da autodidatta, da insomma anche trovare il luogo dove imparare a fare queste cose, dove vedere fare queste cose da amici, magari ingegneri, da informatici, da artisti insomma, più interessati, no? Quindi c'è stato questo lungo percorso, che, e poi anche lei ha subito manifestato anche delle curiosità molto laterali, ecco, non fa il saggio sull'uso dei linguaggi digitali nella storia d'arte, no, per esempio lei si è nel 14 ha fatto un libro su TripAdvisor, cioè, un libro sulla reputazione social dei musei, no? Quindi l'idea che i musei offrono dei servizi di vario tipo, servizi ovviamente quelli per cui sono nati, servizi aggiuntivi di cui si parlava anche la legislazione, eccetera, e poi naturalmente i primi servizi di comunicazione online, e tutto questo naturalmente non rimaneva dentro una nicchia di passaparola col tempo, ma subito veniva riportato, diffuso su un social network che insomma, molto discutibile, una piattaforma molto discutibile, che era TripAdvisor, e quindi anche lì lei ha capito che lo studio dei musei, lo studio dell'applicazione delle nuove tecnologie in tutte le loro modulazioni, insomma, era come produceva anche un aumento di conoscenza e di informazione sui cose, e quindi questo è stato il libro del 14. E poi la saggistica, le ricerche, e poi è arrivato il libro del 2019, Musei per il digitale per i musei. No, Musei e media digitale. Lo sapevo benissimo, anche se musei e media digitali, no, perché non sapete quanto, quando lei deve fare il titolo del libro, che diciamo che consultazioni che fa, ecco, cioè, spostando tutti questi media, digitale, musei, comunicazione, informazione, no, il gioco un po' c'è un gruppo su WhatsApp che subisce tutti i miei titoli che invertono la parola musei digitale in 600 modi. Combinazioni come un po', però questo è anche bello e anche dice qualche cosa, no, di quello che stiamo facendo, cercando di fare, di essere meno triti o ripetitivi, no, non è possibile. Sì, ma me lo ricordo. Lo ricordo bene, l'ho ricordato per presentare questa serata, perché poi volevo spiegare subito questo. Che tra il libro del 2019, cioè, ma hanno più o meno gli stessi sintagmi, no? Però in realtà c'è in mezzo la pandemia, quindi questa è stata una cosa molto importante, questi due libri si potrebbero studiare proprio come una sorta di metamorfosi di come un evento singolare, una singolarità come la pandemia abbia, il libro si può leggere ancora anche questo e regge benissimo, no? Però effettivamente quello che è successo tra il 20 e il 21, come hanno detto insomma, tanti esperti, anche che poi citati da Nicolette, ha accelerato, ha amplificato, no? delle cose, e quindi veramente alcuni aspetti del panorama sono cambiati, e quindi nel 24 esce questo nuovo libro che non sostituisce quello del 19, questo è molto importante, perché quello del 19 è anche un metodo, un modo di presentare alcune tematiche che sono quelle di come i musei utilizzano la comunicazione digitale o la digitalizzazione del loro patrimonio, se questo deve essere consultato nella sede o se deve essere consultato da lontano, insomma sono veramente, sembra come dire intuitivo, ma in realtà lei questa griglia di ragionamento, che è anche una sorta di modello anche di organizzazione, no? del museo stesso, ce l'ha molto chiara e la spiega molto bene, e quindi già qui è spiegata bene. Ovviamente nel libro nuovo si affacciano anche convitati nuovi, no? Non solo la pandemia che ce la siamo lasciati alle spalle, ma invece quello che non ci siamo lasciati alle spalle è l'intelligenza artificiale con tutto quello che compete. Però Nicolette è molto ponderata, non approfitta anche della novità della tecnologia per lanciarsi in si potrebbe, chissà, no, lei si mantiene sempre su un quello che è un'osservazione quasi scientifica, molto oggettiva, molto anche sincera, onesta di quello che il tal museo offre, la tale piattaforma, la utilizza, quindi fa da cavia, fa da, come possiamo dire, utente ideale, il lettore ideale, no? Di Umberto Eco, e da quello poi trae delle osservazioni che sono vantazioni di efficacia, di crisi, di critica, di, insomma, di criticità, no? E questo è veramente, il lettore è molto grato di questa, perché non ti chiede di sposare una posizione a favore, contro, no, ti mette a disposizione veramente un set di informazioni verificate, ecco, vero? Questo anche chiedo sempre conferma, ma io sono anche un lettore, una lettrice di Nicoletta da tanti anni. Ora, per quanto riguarda quest'ultimo libro, io vorrei partire dall'ultima pagina, l'ultimo nome citato nel libro. E mi ha colpito molto, io ho letto anche le bozze, però l'ho riletto, non tutto, ma l'ho risfogliato tutto. E l'ultima, le conclusioni, no? Siamo proprio alle ultime tre pagine, e l'ultimo nome che lei cita è un nome che credo che a molte persone qui è molto caro, ed è di una grande studiosa scomparsa nel 95, che era Dalgisa Lugli. Dalgisa Lugli, chi forse anche gli studenti, è stata una storica dell'arte che ha portato in Italia gli studi sulla Wunderkammer. Nell'87 è andata anche alla Biennale di Venezia, Calvesi l'ha invitata alla sezione Wunderkammer e arte contemporanea, no? E poi ha scritto un manualetto importantissimo, un breve e fantastico di museologia, che anch'io che non sono una museologa, non so, però mi è piaciuto tanto perché non so, fa un uso della letteratura. Che a Parigi nell'Ottocento i poveri andavano in viaggio di nozze al Louvre, cioè il museo era un luogo, una giornata di festa, e si andava in viaggio di nozze in un museo. Questa cosa qui la racconta, e lei è molto brava, ma soprattutto Nicoletta la cita per questo concetto della meraviglia, che adesso è una parola, non voglio entrare adesso come usata, ma quando la usa da Gisella Lugli era veramente puntuale, no? E dice questa frase, no, che proprio nel trattato di museologia dice: il museo è uno degli ultimi luoghi nei quali si va alla ricerca della meraviglia o del diverso, no? Che va bene, no? Il diverso, perché siamo, per non fossilizzarci su quello che sappiamo, della meraviglia, perché anche quello che sappiamo può essere rinnovato. E la conclusione di Nicoletta è quella che qualunque strumento si usi, ora naturalmente qua siamo tutto sul digitale, ma può essere anche il foglietto di carta oppure questa intelligenza artificiale di cui siamo un po' tutti, insomma, preoccupati o comunque in attesa di capire quanto ci dominerà, eccetera. Però qualunque strumento si usi, l'importante è che venga usato nel modo giusto per trasferire la conoscenza, la natura di oggetti, di costellazioni di oggetti, di connessioni fra gli oggetti anche lontanissimi, in un linguaggio presente. È inutile attaccarsi a un linguaggio antico, a un linguaggio nostalgico, o anche a piattaforme, a modi di raccontare nostalgici. Bisogna fare in modo di modulare, di sfruttare al meglio quello che la tecnologia, quello che è l'uso della tecnologia, no? Perché lei anche fa tanti ragionamenti sulle statistiche, sulle percentuali, sui numeri, anche questo è un altro aspetto che è importante. Gran parte dei paragrafi in cui l'indice, che è organizzato alla fine molto bene, è costituito, si basa appunto, oltre su queste osservazioni, su veramente numeri, statistiche, percentuali, quante pagine di musei, quanti musei hanno un certo tipo di strumento, usano un certo tipo di strumento, hanno digitalizzato, hanno appaltato la digitalizzazione, è aperta, è open, è chiusa, locale, cioè tanti tanti elementi puntuali che lo rendono, penso, utile sia a chi il museo lo gestisce, ma anche a chi vuole capire in che modo la novità tecnologica ha a che fare con la propria vita di cittadino, perché è il cittadino che va anche al museo e quindi che va al museo e ormai sa che non è soltanto l'opera d'arte, prima di arrivare all'opera d'arte devi scaricare l'app per fare il biglietto, devi, insomma, c'è una serie di filtri e che Nicoletta spiega molto bene. Ora però non vorrei prendere troppo tempo e vorrei proprio posso farlo da sola, ad Antonio Pavolini, con cui ci siamo prima un po' consultati, la parola su questi aspetti della natura proprio pubblica, privata, accessibile o invece esclusiva, no? Dei dati che sono dentro alla cultura del museo. Grazie Antonella. Sì, anch'io, mentre Nicoletta mi chiedeva l'amicizia su Facebook, io in realtà ero già suo fan perché avevo letto il libro del 2019 e mi aveva colpito moltissimo, appunto perché è raro trovare questa lucidità, questa freschezza, questa capacità di cogliere il cambiamento mentre accade. Questo è nel libro del 19. Francamente dubitavo che qualcuno potesse scrivere un libro migliore di quello del 2019, poi quest'anno è uscito quest'altro libro qua che presentiamo oggi, che dal punto di vista del titolo sembra cambiare poco, perché si passa da, appunto, come diceva Antonella, Musei e Media Digitali, il digitale per i musei, ma io so che ogni minimo modifica del titolo per lei è uno sforzo titanico. E per la casa editrice. Perché in realtà c'è molta politica in questo cambio di titolo, perché intanto il primo è neutro, cioè mette, no? Musei e media digitali, intanto li chiama media, li mette sullo stesso piano. Il secondo invece indica una relazione, mi verrebbe da dire, di servizio. Il digitale è inteso come transizione, quindi non solo media, per i musei, perché probabilmente durante la pandemia abbiamo capito tutti, in via, credo, ormai definitiva, che parlare di reale e virtuale non ha più tantissimo senso, anche se molte tecnologie le chiamiamo ancora così. E infatti io quello che ho notato in questo libro, oltre alla straordinaria asciuttezza, non c'è una parola di più, questo è rarissimo nei saggi, sulla tecnologia dello subito, su questa proliferazione di buzzword, tutti devono mettere le ultime parole che appaiono su Wired, quindi trovi blockchain, Internet of Things, eccetera. No, questo è un libro che delle mode, dell'instant fashion se ne frega abbastanza, penso di poterlo dire, perché va dritto al punto e fornisce intanto un quadro storico di questo rapporto tra media, digitali, cioè digitale e musei. Diciamo la storia della transizione dei musei attraverso la transizione digitale. E poi dopo c'è questa parte teorica e secondo me anche un po' politica, che inquadra per la prima volta il tema in un modo nuovo, sottolineando anche tutte le disfunzionalità, gli ostacoli culturali, politici, burocratici, che ci impediscono un'adozione forse meno spaventata, no, della novità, del cambiamento, e infine poi tutta una serie di case study e di strumenti veramente per chi vuole lavorare, cioè alla fine è anche uno strumento di lavoro. Il tema sotterraneo che già accennava Antonella, che si legge in filigrana in tutto il libro, un tema politico che mi ha appassionato tantissimo, perché io su questo potrei andare a alzare le barricate, eccetera, e è proprio il tema di questo spettro tra accessibilità digitale per l'accessibilità e comunque dall'altra parte scarsità, dove la scarsità si declina in due modi: in un modo che io personalmente posso anche considerare virtuoso, che è la scarsità per esempio dell'intervento curatoriale, no? Che è una figura professionale in cui tutta la società investe, anche soldi pubblici investono nella formazione dei curatori, per far sì che le straordinarie capacità professionali di questa categoria professionale, appunto, diventino un servizio per le persone. Però poi c'è anche una reclinazione tossica della scarsità, che è quella del marketing. È tossica perché il marketing snatura il lavoro non solo del curatore, ma di qualsiasi intermediatore culturale, no? Dove veramente allora lì c'è una tendenza ad offrire alle persone esattamente il contrario di quella meraviglia di cui parlava Antonella, cioè esattamente quello che le persone già si aspettano. E molto troppo spesso questa scarsità finisce per svilire il lavoro del, diciamo, laico, libero del curatore. Il digitale mette seriamente in discussione questo aspetto, questa ricerca della scarsità, perché è uno straordinario moltiplicatore dell'accessibilità. E in tutte queste case study che Nicolette esplora nel suo libro, io quello che vedo è una situazione a macchia di leopardo. Cioè, noi abbiamo tantissimi grandissimi professionisti che lavorano per i musei più importanti, e non è mai la dimensione e l'importanza del museo a fare la differenza. Se c'è una certa cultura, la cultura dell'accessibilità, in una certa istituzione culturale, allora il digitale diventa uno strumento per riabbattere qualsiasi barriera tra, non mi piace chiamarlo pubblico, mi piace la parola che hai usato tu, Antonella, cittadini e opera d'arte. Perché non siamo sempre staccatori di biglietti oppure collezionisti, siamo soprattutto per un'istituzione, per esempio come il Louvre, siamo cittadini, quindi il Louvre non si pone minimamente il problema, già negli anni, non so quanto, è da molto tempo che ha completamente digitalizzato e reso accessibile la sua collezione. Non si pone nessun problema il Met di chiamare il sito, non è il sito del museo, è la quarta sede del museo. Quindi non è una vetrina, non è un posto che serve per promuovere le attività del museo, cioè anche, ok? Ma è un'altra sede del museo. In piccolo prova a farlo anche il MACT di Termoli, no? Che fa delle mostre che sono solo su internet. Quindi non è neanche la dimensione, bisogna vedere se c'è la cultura in un'istituzione per davvero superare questo io lo chiamo il problema della promozione, che ci impedisce di capire lo straordinario potenziale che ha internet per le istituzioni culturali. E aggiungo il titolo, no? Il digitale per i musei. Questo stesso titolo, se fosse stato usato agli inizi di internet, avrebbe già per noi oggi significato tutta un'altra cosa, perché il digitale 20 anni fa era un'altra cosa, era un sogno, era un sogno paritario, egualitario, democratico, un inno all'accessibilità del contenuto. Oggi il digitale è una specie di mappamondo di walled gardens, no? Di giardini murati che non si parlano tra loro, di grandi piattaforme chiuse, monopoliste. In Occidente abbiamo per i social Meta, per il commercio elettronico abbiamo Amazon, ma in Cina abbiamo la loro simpatica declinazione che si chiama WeChat, poi c'è Alibaba, cioè si sta ricreando una guerra geopolitica che fa sì che oggi il digitale per i musei è qualcosa che davvero sollecita la nostra capacità critica di capire i grossi problemi culturali e strategici, perché l'Italia non è, come al solito mi prenderanno in giro, non è la Lettonia, cioè, noi siamo il secondo paese al mondo, come non siamo un paese qualsiasi quando parliamo di beni culturali, cioè noi siamo il secondo paese come siti UNESCO, e sarebbe come se fossimo il primo, perché la Cina è l'unica che appena ci scavalca, ma la Cina è non so quante volte più grande dell'Italia. Cioè, non è banale quello che deciderà di fare l'Italia in questo. In questo libro ci sono molte soluzioni, però io quello che noto parlando, insomma frequentando un po' l'ambiente, che ultimamente mi sono avvicinato al mondo dell'arte, soprattutto al mondo dell'arte contemporanea, è vedo una grande disparità di risposte. Nicolette, ti faccio la prima domanda. Molto spesso le posizioni sull'accessibilità dell'opera, del coraggio nell'utilizzare il digitale, le risposte sembrano risposte di principio. Non si può perché c'è questo principio, oppure si deve perché c'è quest'altro principio. Ma come fa a essere una posizione di principio se tutti poi alla fine di fatto fanno una cosa diversa? Grazie. realtà è la domanda che sta sotto le sta dentro le pagine di questo libro, ed è la domanda che io mi faccio, che mi sono fatta e mi faccio in continuazione. Allora, io credo che il primo problema che noi abbiamo ancora oggi, 2024, quasi 2025, è che è un problema di mentalità. E ancora, sì, è vero, a Macchia di Leopardo ci sono dei piccolissimi musei che fanno delle cose eccellenti, ci sono grandi musei che sono i grandi assenti, ci sono musei che hanno lavorato bene, però ancora, soprattutto in Italia, è una questione di mentalità. Chi c'è, chi viene nominato direttore del museo, come vede il museo e come concepisce l'allestimento, ha un interesse nel far sì che i visitatori entrino realmente in contatto con le opere, che realmente avvenga quel passaggio di conoscenza che dovrebbe essere la mission di tutti, di tutte le istituzioni culturali? Non sempre è così. Peraltro questi tutti e due libri nascono da una anche situazione lavorativa per me molto fortunata. Io ho avuto la fortuna di lavorare per 8 anni alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, e qui c'è la direttrice che mi ha voluto nel ruolo appunto di comunicatrice digitale dell'istituzione, e abbiamo fatto molte cose, ma si possono fare molte cose solo se c'è una predisposizione, un'apertura nei confronti del digitale, e che veda il digitale come strumento utile di accessibilità, che realmente possa aprire le porte a tutti. In realtà diciamolo abbastanza chiaramente, tanto si sa che io non mi tengo una cosa, ultimamente abbiamo visto che strada stiamo prendendo. La comunicazione si è un po' nascosta da qualche parte, il marketing la fa da padrone, e diciamo vengono fatte cose anche un po' discutibili, diciamo vengono dette e fatte cose un po' discutibili. Questo è avvenuto, guarda caso, dopo un cambio che ha fatto sì che vecchi direttori fossero sostituiti dai nuovi. Questo non vuol dire che non sto facendo ci potevano essere direttori non aperti prima e ci sono direttori non aperti oggi e viceversa, però è un dato. Adesso si è molto più ci si è molto più spostati sul marketing, ma il marketing è altro dalla comunicazione, e questa è una cosa che bisogna sempre tenere in conto per quanto riguarda, diciamo, l'online. Per quanto riguarda quello che accade all'interno dei musei, beh, direi uguale, perché io vedo smantellare cose che invece avevano una funzione utile, perché il digitale all'interno del museo non è barriera. Il digitale, se pensato bene, se studiato bene, il digitale all'interno di un museo è apertura, è accoglienza, è permettere al visitatore di decidere se utilizzarlo o meno, questa è libertà. Perché io posso decidere di non usarlo, posso decidere di leggere la scalia, posso invece decidere che avvicinarmi a un tavolo multimediale o scaricare un'app è il mio sistema migliore per comprendere. Adesso ce le abbiamo tutte le possibilità, abbiamo tante chiavi di accesso, perché non darne il più possibile? Guarda, ti dico un piccolo dettaglio che mi ha colpito. Io sono reduce dalla Biennale di Venezia, dove vado sempre tipo l'ultimo lunedì, proprio sperando ci sia meno gente possibile. Nel catalogo sembra esserci una specie di terrore sacro del QR code. Cioè, io praticamente uno ha accettato il catalogo, l'ha già comprato. Quindi qual è il problema se uno volesse approfondire altrove? Non lo so, io dietro ci vedo un ostacolo culturale. Allora, c'è un ostacolo culturale, e qui mi vengono in mente due cose. Una, questa roba che, non so, io penso a un problema di storici dell'arte, questo lo dico proprio da storia dell'arte, è questa paura, che io non lo so da dove ci deriva, che il digitale possa fare del male al rapporto con l'opera. Cioè, se tu hai visto una cosa in digitale non andrai mai più in un museo. Eppure, e qui ricordiamo, qui adesso ci sono persone molto giovani, ci sono anche persone un po' meno giovani, io vorrei chiedere alle persone meno giovani come sono entrate in contatto con molte delle opere che poi hanno visto dal vivo? Le avete viste tutte dal vivo per la prima volta? O le avete viste così sull'organ, a volte in bianco e nero, e avete visto opere 50x50 che occupavano tutta la pagina e opere di tre affreschi di 3 metri per 2 che invece erano al lato a metà pagina, avendo un'idea chiarissima anche delle dimensioni, delle proporzioni, del contesto? Allora, io non capisco perché per noi andava bene e adesso il digitale è un problema, quando invece il digitale, lo sappiamo benissimo, adesso soprattutto per i giovani è un gancio, è il modo per entrare in contatto con una collezione, con un'opera. Poi nulla toglie che se vai al museo avrai questa tua relazione con l'originale e magari l'avrai perché ti sarai incuriosito. Però questo problema veramente che noi abbiamo ancora di mettere in discussione il digitale, perché ma se io faccio vedere un'opera su internet e poi non andrà al museo, a me questa cosa mi imbarazza molto. Sì, ma non solo, tra l'altro, perdonami, la disponibilità della versione digitalizzata dell'opera ex dunc a quel punto dà un valore al percorso che uno trova all'interno dell'istituzione museale, un ulteriore valore. E quindi torna a restituire anche al curatore, per esempio, un nuovo ruolo, purché naturalmente abbia nozione anche di quello che l'utente può aver fatto prima di varcare la soglia del museo, perché questo è importante. Lascio la prossima domanda ad Antonella. Sì, mentre parlavate mi veniva in mente che in questi anni, cioè, Antonio Paolini lo sa meglio di tutti perché proprio studia come è cambiato internet, come è cambiato il digitale, ma stamattina anche alla radio c'era Padre Benanti pure che spiegava benissimo anche la speranza di quello che era la mente connessa, no? La connessione si è molto impoverita proprio sulla strada del marketing, delle oligarchie, eccetera. Però ecco, quello che si è impoverito tanto, lo dico qui a Lugulma poi perché insomma qui mi sembra che anche gli insegnamenti di design siano molto importanti, è la cultura dell'interfaccia, del saper veramente, è una cosa poi anche molto generosa, di pensare a chi userà le cose, qualunque strumento si tratti. Invece c'è veramente una, a volte, devastante povertà, se non addirittura quasi come difficoltà, metti l'utente, anche questa è una brutta parola, però non voglio usare cittadino, qui è troppo. Ho usato utente e chiedo scusa a tutti prima di averlo fatto, cittadino. No, diciamo, di noi che dobbiamo accedere, no, a qualunque cosa, ecco, l'interfaccia non si insegna più, non si studia più, non si fa più il test di usabilità, che è una cosa fondamentale per capire se questa bottoniera, questi bottoni vanno qui su, e poi cambiano, le interfacce cambiano da un giorno all'altro, come diciamo spesso con mio marito che ha insegnato anche tanti anni a scienze della comunicazione, cioè come se tu la mattina prendi la macchina e il giorno dopo ti hanno spostato il volante, invece qui te l'hanno messo sotto, ed è così che accade a volte nella prenotazione, anche in museale, quante volte abbiamo discusso con te sulla difficoltà anche di prenotare una visita, ma anche posso dire, ci sono anche persone che lavorano nel museo, è possibile che io debba avere uno slot di 2 ore, solo quelle per andare a vedere il museo? Che ne è della deriva urbana, della flaneria, del fatto che uno incontra le cose veramente, le incontri, cioè le vedi. Il digitale ti deve dare la base di conoscenza, ti deve dare proprio l'informazione che tu sai che è sicura, che non è raffazzonata un pezzetto da Wikipedia, un po' di qui, e quindi il museo ti deve dare quello. Dopodiché l'incontro reale è un incontro che dovrebbe essere il meno mediato possibile dalle difficoltà e facilitato, no? Io capisco le cose organizzative, eccetera, ma gli incontri più belli, no, sono a volte quelli, però questo, insomma, capisco che è un po' utopistico. Ma è proprio il lavoro sulla cultura dell'interfaccia, c'è un libro, ti ricordo quello di Steven Johnson, Interface Culture, che partiva dalle cattedrali medievali, come anche le cose che usiamo sono delle interfacce, anche il forno per cuocere la torta è un'interfaccia, no? Pensate a quanto è importante che sia fatta bene, e nessuno ci pensa, no, nessuno, qualcuno ci pensa, e infatti uno dei miti dei libri di Nicoletta è il Museo del Design di New York, lo Hewlett Cooper, che per lei è veramente un grande esempio, no? È un esempio di come si possa usare l'innovazione, coinvolgere, e quello che ha detto Nicoletta è veramente da sottolineare: la libertà, la varietà delle proposte e la libertà di scelta. Non dobbiamo, soprattutto nella cultura, già ci andiamo nella vita, diciamo, politica e sociale, ma nell'offerta della cultura, nelle università, nei musei, veramente devono capire, bisogna noi che capiamo che devi veramente sfruttare e mettere a disposizione tutte le possibilità, appunto, dalla penna con la carta riciclata alle meravigliose, diciamo, approfondimenti digitali che fanno alcuni artisti, poi sono presenti qui in Nuvola Project, che spiegano le opere della collezione di Palazzo Merulano. Ecco, però ci deve essere la libertà di scelta, e ogni linguaggio, ogni strumento deve essere pensato da persone che ne sanno, cioè hanno studiato per questo, e quale effetto possono avere, quale feedback, quale difficoltà le persone possono avere nella varia gamma, poi, no? dalla persona disabile, non udente, eccetera, eccetera, fino però alla varietà anche degli approcci cognitivi che noi possiamo avere. Che mi dici? No, sì, questo è un punto fondamentale, anche perché, allora, un tema che io da questo punto di vista, che ho affrontato nel libro questa volta, è quello della vecchiaia. Perché di fatto questo è un paese che, secondo i dati statistici, esattamente nel 2030, cioè tra 5 anni, avrà il 33% di over 65, adesso siamo già oltre il 25%, quindi, ed è un, non so se ci avete fatto caso, ma è un, è il pubblico che non viene mai citato quando si lavora sulla comunicazione dei musei in digitale. Cioè noi, la prima cosa che si dice, perché non facciamo questa cosa? Dobbiamo coinvolgere i giovani. Chi vuoi portare al museo? Dobbiamo portare i giovani. Come li porti i giovani? Questa qua, la fascia d'età quale? Tu speri che ti dicano le scuole? No. La fascia di età 18-22. Allora, sì, beh, sì, l'università, ma dipende poi di cosa fanno, che cosa vogliono. Allora, quello è un tema, bisogna lavorare per portare i giovani al museo. Ok, io lo sento dire da 20 anni. Ci sono questi giovani al museo? Non lo so, perché poi alla fine noi guardiamo i numeri e chi c'è al museo? Io ho 50. Ne abbiamo tantissimi, over 65 ne abbiamo perché sono pensionati, perché sono persone che probabilmente hanno più tempo, hanno... Però a loro non pensiamo mai quando studiamo dei prodotti in digitale, non ci pensiamo mai. E il tema invece è molto importante, e non ci pensiamo mai di solito, perché quando ci relazioniamo con le aziende che costruiscono sistemi multimediali, che aiutano, che collaborano, e lo dice bene Mantellini nel libro Invecchiare al tempo della rete, dice: tu trovi degli smanettoni che hanno 18 anni, che fanno delle cose fighissime, che funzionano benissimo, che sono scritte piccolissime, che ti dicono questo è il futuro, questo è il futuro, questo è il futuro, e tu non, a 50 anni non riesci neanche tu più a leggere perché sei diventato presbite, però quello è il futuro. E allora, però, caliamoci un attimo nella realtà. I visitatori dei musei sono persone che hanno più di 50 anni. prendiamo atto di questa cosa e occupiamoci per una volta di chi al museo ci va e non di questa cosa di chi al museo vorremmo portare, che certamente è un tema, attenzione, è un tema, però non ci occupiamo mai di chi c'è. È come dire, ah, vorrei ricordare a questo, che come se io adesso mi mettessi a ringraziare tutte le persone che non sono qui stasera e non mi occupassi di voi. Cioè, è un po' una follia. E allora, perché i musei non riescono, per esempio, a fare questo passaggio? Che forse, rendiamoci conto che tu dici il QR code, ci sono persone che non vogliono più entrare in un museo e mettersi lì a cercare di inquadrare una cosa alla ricerca della didascalia digitale, perché nessuno ha pensato che oltre alla didascalia digitale, che ci sta e magari può essere più approfondita e può avere più livelli, ci deve essere la didascalia fisica. Perché io A, posso non avere il cellulare, pensa un po', B, posso avere lo scarico, cosa che succede a tutti noi dopo le 5 del pomeriggio, e non ho postazione di ricarica all'interno del museo, attenzione, perché sarebbe troppo bello. Io le uniche che ho visto le ho viste a Palazzo delle Esposizioni in mostra e al Rijksmuseum di Amsterdam, non credo di averne mai visto. Sia a Coburg, a Parigi. Ci andrò a ricaricare il telefono. Oppure posso non saperlo usare, e questo è un tema sempre più frequente, ed è il tema per cui innanzitutto io ti inviterei tutti a riflettere sul fatto di far usare i propri dispositivi e non dare in mano altri tablet, altri strumenti, altre cose che le persone devono imparare ad usare lì, perché le persone si sentono a disagio. Allora, già sono bontà loro in un posto in cui tendenzialmente tende a far sentire le persone a disagio, se non sono esattamente colte il giusto per entrare in un museo, e questo lo sappiamo tutti. In più, diamogli pure un altro motivo per essere a disagio, che magari non riescono, gli si impalla, non gli funziona, si vergognano di chiedere, di dire che gli sei impallata l'app, che magari che non riescono a attivare la connessione di rete, che noi le persone le mettiamo a disagio, e non si capisce perché invece non possiamo prendere strade più semplici. Il tavolo multimediale di Barberini aveva una cosa fichissima che io l'avevamo voluto, però poi l'ho visto utilizzare, mi è sembrata una cosa meravigliosa, ingrandire i testi fino ad arrivare a questa dimensione. E io ho visto gruppi di persone di una certa età, una signora con gli occhiali, che era andata a prendere gli occhiali nell'armadietto, con gli occhiali che leggeva per tutti quelli che gli stavano intorno, avevano trovato un modo collettivo e di comunità per usufruire di una cosa, perché una signora aveva gli occhiali, una signora non riusciva a leggere, una signora aveva difficoltà a fare l'unpinch, una si era presa la briga per leggere per tutti. Allora si possono fare cose semplici per tutti e non per forza tirare su muri, come diceva prima Antonio. Eh sì Nicolette, tra l'altro parlando di muri, ancora una volta, sicuramente il tema della pandemia ritorna come grande momento di confronto tra un prima e un dopo nel nostro rapporto con lo spazio pubblico, cioè il museo inteso come spazio pubblico e anche internet intesa come spazio pubblico, perché non so se vi siete accorti, in questo momento su internet noi passiamo il 99% del nostro tempo in luoghi che sono aperti al pubblico, sono come dei negozi, come un centro commerciale, sono luoghi aperti al pubblico con la finalità estrattiva, diciamo, di innescare una relazione che di fatto è commerciale. È commerciale perché sapete queste piattaforme come funzionano, ogni volta che interagiamo rilasciamo dati che vengono rivenduti agli inserzionisti. E ecco, io credo che la grande opportunità del vecchio, scusate se lo chiamo così, sito del museo, praticamente i siti dei musei sono rimasti forse fuori dalle grandi piattaforme ancora gli ultimi posti dove si può fare ancora qualcosa di molto libero e di molto grande e di molto coraggioso, coraggio uguale grandi investimenti pubblici spesso, no? Penso alla alle ultime due documenti, sono stati dei fallimenti spaventosi, come sappiamo dal punto di vista mediatico, però dietro il fallimento c'è stato un grandissimo coraggio, cioè non esistono più grandi iniziative culturali che possono accedere a così tanti fondi pubblici, no? E somigliano un po' a questo certi siti che provano a diventare archivi incrementali di tutto quello che succede, quindi l'esatto opposto di una vetrina, o addirittura pubblicare tutti i cataloghi out of print come fa il MoMA, qualcosa di blasfemo per quasi tutte le mostre, i musei italiani, cioè non si può scaricare il PDF di tutti i cataloghi che sono fuori stampa, sì, si può fare e non è pirateria. Ecco, questo io credo che ci faccia riflettere sulle opportunità dello spazio pubblico, del digitale inteso come spazio pubblico, e poi tutto quello che abbiamo imparato dalla pandemia. E cioè, per esempio, io tuttora sento dire che durante i due anni della pandemia, cioè mi raccontano come dei grandissimi successi sono state le visite virtuali, dove tu vedi due privilegiati, e tu sei chiuso a casa, cioè il lockdown, ma vedi due privilegiati che da soli esplorano l'interno di un museo dove nessun altro può entrare. E oggi queste cose nei convegni vengono raccontate come dei grandi successi, perché il digitale ha dimostrato come far vivere ancora i musei. Mentre cosa facevano le persone? Erano chiuse a casa e non appena sono potute uscire di casa, e i musei erano tutti ancora chiusi, hanno cominciato a concepire lo spazio pubblico come qualcosa di svincolato dalla dimensione d'uso. Non c'è più una barriera, un confine, superato il quale entri in un posto dove devi fare delle cose, perché c'è un'istituzione che ti dice quello che devi fare. No, quella collina che ti separava dal luogo di partenza, la casa, e il luogo d'arrivo, il museo, e che per te era solo un ostacolo, quanto tempo ci metto a fare questa strada, sì, so che c'è questa collina con le pecore, no, quella collina è rimasto l'ultimo posto dove posso fare qualcosa io. Darmi un senso, sentivo parlare di flânerie, abbiamo perso la flânerie, abbiamo perso la capacità di fare qualcosa di svincolato dalla dimensione d'uso, perché i primi situazionisti cosa facevano? Si ribellavano all'idea che la città fosse casa e luogo di lavoro, e tutto il percorso che stava in mezzo era il massimo che tu potessi fruire della città. E invece vagare, no? Le derive, no? Di Debord, ti permetteva di capire veramente le relazioni sociali attraverso lo spazio pubblico, a prescindere dalla destinazione d'uso. Oggi che abbiamo internet, noi possiamo dare un senso individuale a ogni punto nello spazio. Ed è per questo, per esempio, che qualcuno comincia a lavorare con i musei diffusi, che superano l'ostacolo del muro, dell'edificio. L'idea anche di aggregare l'offerta culturale di più musei attraverso dei siti, per esempio, che possono essere condivisi tra più istituzioni culturali. Cioè, il digitale ha abbattuto dei muri spaventosi. Non solo, e qui faccio la domanda a Nicolette, se no giustamente si perde nei miei sproloqui. I musei stanno sostituendo i media nel creare dei riquadri di rilevanza per le persone. Quando entriamo in un museo, usciamo, abbiamo molte più notizie rispetto a quando apriamo un giornale e lo chiudiamo. E questa è una straordinaria opportunità che abbiamo. Non so se ti ho convinto in questo, ti vedevo scettica. No, allora, innanzitutto devo dire una cosa rispetto a quello che hai detto prima, la pandemia. Io in questo però difendo i musei che hanno cercato con due soli superstiti di far capire che erano ancora vivi ed erano soprattutto ancora lì e che avrebbero aspettato tutti. Io li difendo perché i musei si sono trovati, noi ci siamo trovati, in una, lo sa Isabella che ha organizzato il convegno chiusi per Covid, aperti per cultura, ma lo sappiamo, l'abbiamo scoperto noi che ci siamo ritrovati con due mostre, una appena aperta e una mai aperta, cioè mai inaugurata. E a quel punto cosa potevi fare? o rimanevi chiuso e basta e non davi più nessun tipo di segnale, oppure cercavi di fare, e c'è chi l'ha fatto meglio, molti l'hanno fatto bene, quelli che erano già strutturati sui social, che avevano già dei profili forti, che avevano delle competenze interne che potevano avere su questo, hanno fatto delle cose anche eccellenti. Noi siamo riusciti in qualche modo a raccontare la mostra di Orazio Borgianni esclusivamente così. Ma che mi dici per esempio di quella startup di quei quattro ragazzi di Torino che si sono inventati Art Away, e le persone quando non potevano ancora uscire di casa facevano delle visite guidate, che so, il futurismo a Milano, ed erano dei percorsi su internet tra un luogo e l'altro semplicemente utilizzando ciò che su internet già esiste. Sono ragazzi. Non so, no, guarda, non so, lo dovrei vedere, me lo sono perso, però ecco, non possiamo giustificare tutti, ma forse sì, sono ragazzi. No, dipende ovviamente. Allora, altra cosa che qui emerge molto forte, o almeno ho cercato di far emergere molto forte, due pilastri: le persone da una parte, i cittadini, come avete chiamato voi, i visitatori, le persone da una parte e i contenuti dall'altra. E allora, a me una cosa senza contenuti non interessa. Se un museo non riesce a proporre contenuti originali di qualità, ha un problema. Se un museo riesce a produrre solo contenuti scientifici, ha un problema. Scientifici intendo ovviamente per pubblicazioni di tipo scientifico e non divulgativo. E, perché il museo è di tutti. Ed è, secondo me, quel luogo aperto di cui tu parlavi, perché può essere. Ed è, c'è una cosa che a me colpisce molto e che lascia molto perplessi molto i miei ragazzi, ed è successo anche la settimana scorsa a Milano a lezione, quando io ho parlato del fatto che i ragazzi, il gruppo di ultima generazione, crea scompiglio nei musei. Per me è importante perché hanno scelto i musei. Questo... No, sono d'accordo con te. Hanno scelto i musei sono diventati un luogo, e adesso, guarda caso, qual è lo scandalo? Che tutte le persone che inorridiscono ad ogni azione di ultima generazione in realtà si accorgono solo oggi che esistono i musei e che le opere d'arte sono loro. E che esiste anche ultima generazione. E che esiste anche ultima generazione, e che esiste anche il problema climatico, e che esistono un sacco di cose. Però è importante perché il museo può tornare centro, però deve anche, diciamo, farsi carico di essere autore e non solo di articoli scientifici, di cataloghi, va benissimo, magari. Ma essere... Ma magari. Però oltre questo che sia anche autoriale nei contenuti che vanno al grande pubblico. Beh, il museo come editore. È molto più titolato il museo a fare l'editore che la grande azienda. Questo lo dico appunto lavorando in un'azienda che spesso appunto ha velleità di questo tipo. Ti faccio un'altra domanda. La parte finale del libro, che è quello che parla, la parte che parla di tutto ciò che il digitale può fare on site, l'ho trovata molto interessante. Citi tutta una serie di case study di successo dell'uso di tecnologie come l'augmented reality, la virtual reality, la mixed reality. Quello che io però ancora non vedo nei musei, correggimi se sbaglio, è qualcosa che vada un po' al di là dell'evento, cioè del momento di hype che che l'impiego della tecnologia dovrebbe creare. Cioè io non vedo ancora queste tecnologie calate nella quotidianità della vita nel museo. Quanto siamo lontani? Ma non parlo solo di queste tecnologie, parlo in generale di tutto l'avanzamento dell'on-site, no? Di cui parli nel libro. Allora, ci sono dei casi eccellenti che io ho provato a a descrivere, e il caso per eccellenza, non lo so perché mi conosce, essendo il Cooper Hewitt, ma semplicemente perché hanno, da un certo punto di vista hanno avuto una fortuna, hanno chiuso e hanno riprogettato tutto in senso con interfacce digitali, per cui insomma invece da noi di solito il digitale viene calato, c'è una cosetta qua, una cosetta là, inseriamo un'app e facciamo un comunicato stampa. E facciamo hanno fatto un grande progetto. Loro hanno fatto un grande. No, hanno disegnato completamente l'interfaccia. E, però insomma lo fanno in tanti. Allora, noi abbiamo dei casi molto molto buoni. Ovviamente sono avvantaggiati i siti archeologici, i parchi archeologici, perché di fatto ad oggi sono quelli che hanno capito che se non, diciamo, ricostruiscono, quantomeno virtualmente, è difficile che riescano ad attirare persone, per cui ci sono delle buone cose. Sui musei d'arte moderna, beh, insomma, ci sono delle buone cose. Se mi stai chiedendo quando arriveremo ad un sistema che accetta ed integra tutto, beh, siamo ancora molto lontani. Sì, però a un certo punto di maturazione la tecnologia sparisce, no? Cioè uno neanche si chiede più, non c'è più l'effetto wow, dice sto usando la realtà aumentata. Cioè, per esempio, oggi le audioguide si dà per scontato che possono essere podcast, credo. Adesso lasciamo perdere le fasce d'età che hanno difficoltà, quello insomma, sacrosanto quello che dicevi. Però bene o male c'è anche un'aspettativa di avere un set di contenuti di cui il museo giustamente è editore, anzi a questo proposito vorrei citare l'ottimo lavoro che ha fatto l'uscente Lopinto al Macro qui a Roma, no? Che ha trasformato in una piccola casa editrice anche il museo per un certo periodo, del resto lui aveva fondato Nero, quindi giustamente è un mestiere che sapeva fare quello editore. Comunque detto questo, nel quotidiano ancora la tecnologia mi sembra che stia un po' stentando, soprattutto perché c'è il problema, ecco, tu parli molto di questa cosa di utilizzare tutte le categorie kantiane della comunicazione, no? A un certo punto fai questo bellissimo elenco di come il digitale ci può aiutare a venire incontro a questi principi. Poi lo so che è un po' uno spoiler del libro, però se ce lo puoi un po' anticipare. No, basta. No, non lo anticiperò perché quella è proprio la parte importante del capitolo sui contenuti e insomma c'è un modo semplice per riuscire a scrivere contenuti in modo semplice. E tu lo vivi come una scelta etica questo, no? Di andare incontro alla comprensibilità di tutti. La cosa da fare, non ne vedo altre. Non c'è spazio, per esempio, per una pedagogia della complessità, perché non c'è il rischio, per esempio, adesso io cito sempre i quaderni di Oietti, no? Quando lui dialoga con Mussolini, e Mussolini dice la prima cosa della propaganda è farsi capire, no? C'è anche un lato tossico del far arrivare il messaggio al bambino di 3 anni, come diceva anche Berlusconi. No, su questo non mi no, assolutamente no. Anche perché se no, diciamocelo, diciamo che i musei sono per pochi, diciamo che a Palazzo Barberini possono entrare solo quelli che conoscono Pietro da Cortona e sanno citare almeno 3 cortoneschi della prima ora, e allora so, qua dentro non lo so quanti, lo dico, forse neanche io me ne ricordo più, ma però se invece pensiamo, ritorniamo sempre a monte, se invece pensiamo che la missione fondamentale del museo sia diffondere conoscenza, come io credo sia, e allora noi abbiamo il dovere di parlare con tutti e di raccontare a tutti, perché ognuno ha dei bisogni specifici, perché viene da una formazione specifica, da una non formazione, da, per qualsiasi motivo una persona a un certo punto casca dentro un museo, deve avere la possibilità di uscire con qualcosa. Sì, che la volta dopo magari lo fa salire di categoria. Forse sì, ma forse anche no, magari la volta dopo tornerà e si stupirà di nuovo davanti allo stesso quadro, o non si stupirà, o a un certo punto cambierà idea e dirà: ma questo mi è sempre piaciuto, adesso non mi piace più. Magari dopo aver scoperto il significato dell'opera dirà: ma a me questo non mi piace. E invece, scoprendolo, dopo aver detto mi fa schifo, sapendo invece la storia che c'è dietro, potrà dire: però. Quando parli, prima di dare la parola ad Antonella, perché ho fatto tre domande di fila, dai, ancora una c'è e forse poi magari poi vediamo anche al pubblico. No, quando parlavi del fatto che il museo in sé mette in soggezione le persone, no? Molto spesso quando entrano, non è anche perché appunto toglie alle persone il diritto di dire: questo non mi piace, questo non lo capisco. Ma allora forse sì, il timore di dire che non puoi dire questo non lo capisco. Il museo non è un sistema complesso, non è un luogo semplice da affrontare, è per questo che bisogna in qualche modo aiutare le persone ad affrontarlo. E noi veramente diamo troppo per scontato. Siamo veramente, temo che viviamo tutti in una bolla e ci stupiamo quando le persone dicono: ma pensa questo, ma sai quante ne ho sentite dire: non sa cos'è un timpano, sì, ma poi miseria. Quando li chiamiamo dispositivi, i musei sembra quasi che tanto ci pensa il museo. È il device. Cos'è una guardando la predella e vedi la gente che alla ricerca di una predella che chissà cos'è nella mente delle persone, se non gli dici chiaramente che forse deve guardare alla base della parentale. Però veramente siamo un po' troppo elite ancora, e invece dobbiamo lavorare semplificando la complessità per rendere il museo accessibile a più persone possibili. Poi c'è anche qualcuno che dirà: il museo non ci vuole andare per niente, non ci andrò mai, ed è una libertà anche quella. Chapeau. Beh, se c'è ancora tempo, insomma, prima magari di far anche intervenire, c'è un altro tema che sta dentro questo libro, che è quello dell'attenzione. Di quanto tempo tu dedichi a guardare i quadri, di quanto tempo dedichi ad aggiungere informazioni, a raggiungere informazioni. E faccio proprio brevemente, perché vedo che insomma si sta chiudendo, e che in questo periodo si sta studiando molto l'economia dell'attenzione. Ti viene riportato un vecchio studio di Herbert Simon degli anni 50, insomma l'economia dell'attenzione, che è qualcosa che credo che anche per tutti noi, per me personalmente, diventa sempre più labile, l'attenzione che io riesco a ho portato, non del digitale, è un portato del telefonino, è un portato dei social, di questa diciamo anche volontà di distrarci, no? Di distrarre, di mandare la testa da un'altra parte, che non è neanche il sogno occhi aperti, ma è il sogno di quello che ti viene proposto sotto gli occhi senza senso. No, tutto questo, dicevo che però questa attitudine, questa abitudine che noi abbiamo riduce tantissimo la concentrazione e la capacità di attenzione. Mentre parlavate pensavo: ma se i musei aprissero dentro le loro sale dei luoghi di riabilitazione dell'attenzione, proprio un rehab, no? Come si fa? E io vengo proprio per passare per, sto 30 secondi, no? non ci sto 7 secondi come dici tu, con tutte citando le percentuali, ce ne sto 10, poi 12, poi 15 di fronte all'opera, che sia l'opera vera davanti o sia anche l'esplorazione ingrandita, così mi viene in mente. Ecco, io ci farei un, come la fisioterapista. È il tema su cui sta lavorando la Tate, è proprio questo, lo slow tour che prevede che il museo venga preso finalmente con calma e torni alla sua lentezza. Questo però bisognerebbe fare delle politiche diverse di accesso, perché chiaramente bisognerebbe prevedere, per esempio, dei micro, non lo so, dei micro biglietti, se proprio dobbiamo bigliettare, perché le persone dovrebbero essere libere di entrare e guardare un'opera. Oppure entrare e guardare cinque opere che fanno parte di un percorso che magari tu gli puoi suggerire tramite quella cosa facile, facile, bella, bella, utile, utile, che è la mappa. Adesso dirò qui mappa. Che, a parte quella del Victoria and Albert, che è la mappa peggiore del mondo, perché come ci siamo persi al Victoria and Albert, siamo finiti sempre nello stesso posto senza mai trovare il resto, non fatela così se dovete farla, però la mappa è una cosa molto, molto utile per dire quanti minuti hai? Hai mezz'ora? Guarda, potresti vedere questo, questo e questo, oppure potresti vedere questo, questo e questo. Certo, bisogna fare una politica di bigliettazione che sia diversa, perché io non posso spendere 15 euro ogni volta che ho mezz'ora per andare al museo. Magari una card che mi permetta di entrare al museo quando voglio e di fare, di stare un po' con le opere e di cercare di capirle. E la Tate sta lavorando proprio a questo. Potrebbe essere un punto. Ma forse l'aveva fatto, aveva qualcosa ai musei in comune, avevano fatto qualcosa ad un certo punto, il pranzo ai musei, sì, la pausa pranzo al museo. I musei in comune hanno per i cittadini romani la... No, a parte la Nick Card, però c'era un progetto, mi ricordo, forse qualche tempo fa. Sì. Cioè, bisognerebbe ripensare a delle politiche che aiutino le persone ad andare liberamente al museo per passarci del tempo. Anche delle sedute nel museo. Si può essere 20 minuti davanti a un'opera in piedi, se sei giovane o se sei anziano. E quindi tenere la Biennale aperta la notte, visto che lì c'è un uso bulimico in questo momento, no? È praticamente impossibile con gli orari che ci sono, fruire tutti i padiglioni. Io direi di aprire le domande del pubblico, se siete d'accordo. Prego. Addirittura sì, forse sì. Se ci fosse sarebbe meglio, così viene anche nella registrazione. È vivo. Allora, mi chiedevo a proposito di queste riflessioni, se non c'è un gap temporale. In che senso? Se, come spesso succede, di fronte a un'opera tu appunto stai col telefonino e inquadri il QR code, alla fine magari non vedi l'opera. Ma quello è per il dopo, per quando, esatto, quando sei a casa. Questo forse andrebbe sottolineato, la tempistica. Allora io qui mi fa piacere dire che quando ho visto un museo, una mostra con Nicolette che spiegava, me la sono voluta molto di più che non andare a cercare, no? Che poi ti viene spontaneo perché puoi avere le informazioni. Quindi qual è il rapporto della tempistica? Seconda domanda, velocissima, avete parlato di marketing, vi volevo chiedere un esempio di questo, mi è venuto in mente per esempio... No, la capriola. Non puoi fare esempi? L'opera d'arte come merce invece che come patrimonio. No, lo dico perché per esempio mi ricordo di aver reagito un po' infastidita quando ci fu l'esposizione dei bronzi di Riace a Quirinale, a Piazza Quirinale. Beniamino Placido fece un articolo cattivissimo, non so se ve lo ricordate, dicendo che quella lunga fila era per vedere gli attributi dei bronzi. Io dissi, ma se ci stanno i bronzi, per qualsiasi motivo, ed è un fatto modaiolo, why not? Perché no? Riguardo alla prima domanda, allora, è evidente che il digitale deve essere il più invisibile possibile e il meno invasivo possibile laddove è possibile. Quello dipende da come si studiano i percorsi di visita. Ma il digitale non deve per forza essere in prossimità di un'opera, a meno che non sia utile a ricostruire, ad esempio, il contesto di quella determinata opera. E allora sì che deve essere in prossimità, però deve essere una cosa comunque che non vada a disturbare la visione. Ma ci sono esempi. Sì, ci sono esempi anche per che con uno storytelling, ho detto storytelling, con una narrazione ben fatta, in realtà poi l'attenzione tu la concentri sull'opera, non più sul dispositivo. Quindi questa è la cosa. Che dire sull'esempio del marketing? No, non ne fa, cioè nel senso quando invece che il, prova a dirla così, prova a rigirarla e dire questa cosa, invece di pensare che l'obiettivo è quello di trasmettere conoscenza, tu fai dei contenuti che servono solo ad attirare persone perché vuoi bigliettare il più possibile. E quindi l'opera d'arte diventa più un mezzo pubblicitario per attirare persone che non un mezzo per raccontare qualcosa dell'opera. Se ne vedono tante ultimamente, purtroppo, cioè si vedono palazzi monumentali, scale monumentali con sopra scritte che appaiono fosforescente, wonder. Ecco, diciamo che quella non è esattamente comunicazione. La comunicazione è altro, è cosa ben più complessa e strutturata e ha altri obiettivi. Per quanto riguarda la cosa dei bronzi di Riace, sì, peraltro c'è un bellissimo podcast che racconta, che è sull'arte, l'arte salvata, mi pare che si chiami, che racconta insomma, il ritrovamento di bronzi e l'esposizione dei bronzi di Riace al Quirinale. E sì, c'è tutto il fenomeno, c'è qualcuno che dice che il fenomeno dell'overtourism nasce con quella fila chilometrica sotto il sole di luglio per andare a vedere i bronzi al Quirinale. Quello è stato il primo evento di massa in assoluto. E è stato un bene, è stato un male? Chi lo sa? Sì, Van Gogh e Lagnam. Sì, esatto, sì. Diciamo quello dei bronzi di Riace, queste due sculture che hanno creato, diciamo, un notevole cambiamento della nostra. Ma diciamo che quelle 150.000 quante erano persone che hanno visitato i bronzi di Riace sicuramente hanno qualcosa di cui parlare tra di loro, e certificando così il fatto di appartenere alla fruizione culturale. Non so quanto questo in sé poi avvicini di fatto queste poi persone alla cultura. Io quando vedo queste file spaventose che ci sono sempre lì su via 20 settembre, penso, ecco, queste sono tutte persone che non andranno alla rassegna di Simone Carella, sì, ho capito, però vanno tutti a vedere la stessa cosa per potersi sentire parte, per esaltare la dimensione sociale di quella cosa. E purtroppo la famosa diversità, la famosa meraviglia, poi dopo dove va a finire? Però qua c'è grande dibattito, grande mostra, musei, portiamo la gente al museo e cominciamo un po' a limitare il lancio di cose stupefacenti. questo è un grande, comunque, grande, sì, dibattito. È bello parlare anche di questo. Allora, io ti chiedo una cosa, non so se ci puoi aiutare, almeno me. Che io posso aiutare te. Magari hai qualche dato in più. Paolo è il mio direttore per la parte intelligenza artificiale, quindi. Io la cosa che ti volevo chiedere è quanto è comune nei musei avere internamente, quindi nell'organico proprio, delle figure che creano poi dei contenuti, ma anche dei prodotti digitali. Perché poi a me mi è venuto in mente da quel catalogo della Biennale che mancava di QR code, e io cercavo di darmi una ragione. La ragione più semplice è che non sapevano dove metterla, la pagina di atterraggio. Cioè, perché stampare un QR code ci vuole zero. Beh, però ogni artista c'ha questi che erano sul catalogo, ma anche un sito. Cioè, il problema è riuscire a guardare fuori dalla propria. Ma se tu devi fare qualcosa di curatoriale, alla tua identità visiva rimane sempre quella. Certo, se questo è il vincolo, ma posso dire, la Tate nelle schede artisti, lo cita la Tate Modern, lo cita nel libro Nicolette, punta addirittura a Wikipedia. Ed è blasfemo questo, solo perché sta in un posto che sta fuori e dove potrebbe scrivere chiunque. Cioè, il web è una cosa dove tutti i contenuti hanno certo, la stessa. Cioè, non è che è curatoriale se mantiene l'identità visiva. Qual è il discrimine molto vicino, molto sottile? Il fatto che si passa immediatamente a parlare di marketing quando poi arriva l'agenzia esterna che ti deve curare la comunicazione. E l'agenzia esterna, di solito, fa pubblicità. Certo. Quindi non li possiamo, come dire, condannare per il loro lavoro. Mentre se tu avessi internamente... Certo, certo. I tuoi servizi, i servizi educativi, la comunicazione, il reparto IT, chi ti fa le installazioni interattive, la tua comunicazione. La città del sole di Tommaso Campanella. Però nessuno si immagina un museo senza la funzione del direttore o della funzione amministrativa. No? Qui abbiamo scoperto l'acqua calda. Allora, qui abbiamo un problema, perché qui c'è parte del tavolo anche sulla comunicazione digitale di Icom. Allora. Non tutti i musei hanno in organico la figura che si occupa della creazione di contenuti, e questo è un problema. Però c'è un problema a monte. Lo vogliamo riconoscere o no questa figura professionale del comunicatore museale? E o continuiamo a fare dal 2001, dalla legge sulla pubblica amministrazione che diceva che la comunicazione era settore fondamentale, continuiamo a fare un tira e molla, adesso facciamo un concorso, adesso ritiriamo il concorso, adesso facciamo una figura del funzionario comunicazione e valorizzazione. Aspetta, forse ci siamo sbagliati, non lo facciamo più il concorso. E abbiamo queste 100 persone in tutta Italia che girano, che sono sempre le stesse 100, perché sono le uniche che hanno partecipato al concorso, e tutti gli altri musei sono... chi ha direttori, tra virgolette, che si rendono conto, illuminati, che si rendono conto dell'importanza della comunicazione, che vi dico è asset fondamentale per qualsiasi istituzione, ma insomma è inutile che lo dico a voi, che magari prendono una persona che si occupi di quello, e tanti musei che semplicemente non possono farlo perché non hanno risorse economiche per farlo. E quindi a quel punto chi li fa i contenuti? Questo, altro che macchia di leopardo, torniamo, si chiude il cerchio e torniamo all'inizio. Noi abbiamo un problema enorme, e abbiamo un problema che deve ancora partire da un riconoscimento reale del ministero delle professioni che non sono le professioni tradizionali, ma sono quelle 4, 5, 6 professioni che sono il comunicatore, ma sono anche il regista, sono l'educatore. Sono queste professioni che non hanno ancora, che sono pienamente al lavoro nei nostri musei, ma che non sono riconosciute in alcun modo. Perché io, come comunicatrice in un museo, ho meno valore di uno storico dell'arte e di un archeologo, ma perché che poi sono io che medio i contenuti verso l'esterno e che traduco quello che tu dici verso l'esterno? Che sono io che aiuto l'architetto a dire guarda, questo tavolo mettiamolo qui perché deve avere questa relazione con l'opera, con le sale, eppure io non ho lo stesso peso dell'architetto. Sono io che gestisco le crisi quando si scatenano sui social e sto settimane a rispondere a commenti per salvare la reputazione di un'istituzione museale, ma non ho lo stesso peso degli altri. Adesso sto prendetele tutte come casi, così però, però ti prendi la colpa tutte le volte che fa qualcosa male, no? Però ti prendi la colpa tutte le volte, questo è, lo disse Schriesmann, non riesco mai a pronunciarlo, il direttore del settore comunicazione del MET con i suoi 27 dipendenti, che disse nessuno si accorge di quello che un social media manager museale fa sui social fin quando non fa un errore. Posso dire una cosa sulla Tate che rimanda per le voci degli artisti a Wikipedia, ma in Inghilterra non so della Tate, ma piccoli musei organizzano delle sessioni con la comunità di persone che vogliono partecipare, con degli insegnanti, storici dell'arte, e scrivono le voci di Wikipedia, degli artisti locali, degli artisti che non hanno una voce, e credo quella è una cosa bellissima. Si parlava appunto all'internet degli inizi, di fare comunità, di mettere co-creazione. Sì, ma anche validata, perché poi c'è qualcuno che verifica, per cui è ovvio che poi il museo ti manda la voce di Wikipedia, ma è la Wikipedia inglese. Sì, bisogna convincere Letta a mettere il link alla scheda. Adesso, ma comunque questa era una piccola parentesi che ci riporta sì a degli elementi utopistici, però che non troverete nel libro di Nicoletto, no? Perché Nicoletto c'è veramente piedi per terra, e c'è però un'idea di che cosa sarebbe bello, cioè è proprio questa sua oggettività che poi ti fa levitare su una dimensione, insomma, diciamo che hai l'autorevolezza per farci sognare. In estremo sì. Beh, e su questo direi che la vostra casa. Vai. No, io volevo fare un'osservazione. Trovo che quello che hai detto sul occupiamoci dei visitatori del museo sia molto molto intelligente, cioè questa mania di rincorrere chi non va nel museo è corretta, come abbiamo detto, ma non è quella l'unico scopo del museo. Dopodiché certo, noi che insegniamo all'università, io quantomeno ho potuto constatare, non so se anche tu Antonella, che i ragazzi che sono entrati all'università dopo il Covid non hanno visto nulla, nulla, e quindi mi chiedevo se obiettivamente questo dato tu l'abbia tenuto in considerazione nello scrivere questo nuovo libro. Cioè, il Covid ha segnato obiettivamente un momento di, non sono un sociologo, non so capire, però un momento in cui le persone si sono allontanate dall'idea di poter comunque osservare, di poter, e questo naturalmente lo riguarda tutto, non riguarda solo il museo, cioè prendersi il tempo per osservare, per capire. Mai come quest'anno, io vengo da un anno sabbatico, quindi non ho potuto sperimentare subito cos'è successo subito dopo, ma quest'anno veramente io ho potuto notare che questi ragazzi non hanno visto i musei, non hanno visto i monumenti, e credo appunto, siccome mi è capitato più volte di interrogarli su questo, penso che questo sia proprio una ricaduta del Covid. Dopodiché volevo fare un'osservazione rispetto a quello che diceva Pavolini, cioè io credo che sia sbagliato quando si parla di comunicazione pensare che esiste una comunicazione alta e una comunicazione bassa, e in questo vorrei sentire appunto proprio Nicoletta. Cioè la comunicazione si può fare di qualità anche quando è rivolta ad un pubblico basso o medio. Cioè io non credo appunto che in una mostra, in un museo, noi dobbiamo porci il problema del a chi comunichiamo, cioè noi ci dobbiamo porre il problema come comunichiamo, e in questo come comunichiamo, come dire, accettando l'idea che il museo comunica con tutti, dobbiamo cercare una comunicazione alta di qualità per tutti. Penso che io insomma vengo anche da esperienze, ho curato mostre eccetera, ecco, la cosa importante è forse insegnarlo. Il problema appunto forse nostro è la carenza di insegnare anche dentro l'università a porsi nell'ottica professionale di chi fondamentalmente deve restituire dei contenuti. Quello è una questione seria, cioè chi insegna anche ai nostri studenti a scrivere un pannello di sala, a scrivere una didascalia ragionata? Beh, purtroppo è un po' lo stesso problema di cui parlava prima Nicoletto, cioè le nuove professioni non riconosciute, ma anche un insegnamento che forse va anche in questo senso rinnovato. Però basta, come dire, a volte basta invertire una frase, renderla interrogativa per cogliere l'attenzione del pubblico e per arrivare quindi a una comunicazione che apparentemente sembra più bassa, ma più bassa non lo è. Questo è, diciamo, il tema dei contenuti, l'abbiamo detto, è fondamentale. Allora, qui ci sono tanti miei studenti e tanti miei ex studenti, soprattutto, che sanno benissimo che una slide che hanno visto tutte le mie aule da sempre è che bisogna imparare a semplificare la complessità, e semplificare non vuol dire banalizzare. E purtroppo invece ancora spesso alcuni colleghi pensano che quando gli si dice devi scrivere in modo più semplice, la prima cosa che ti risponde è ma non si può banalizzare. Scrivere in modo semplice vuol dire solo aver compreso molto bene il tema complesso che tu devi affrontare, non è nient'altro. La banalità sta fuori dai musei, però bisogna trovare la chiave, anzi, e ripeto, bisogna trovare molte chiavi, perché secondo me bisogna dare contenuti strutturati in modo diverso per accogliere più persone possibili. Cioè io non possiamo mettere le mascherine? Bene. Possiamo mettere i pannelli di sala? Bene, possibilmente un po' più sintetici, scritti un po' più grandi di quello che facciamo normalmente, e se vediamo di farli in beige su rosso bordeaux, questo già potrebbe aiutare. Però poi possiamo fare un podcast, possiamo fare una guida digitale, facciamo tutto quello che è possibile con un contenuto specifico per ogni mezzo affinché si sia in presenza di un sistema transmediale a cui tutti possono accedere. Puoi accedere solo a un pezzetto? Quel pezzetto deve essere autoconsistente e deve stare in piedi per darti un'informazione minima che tu ti porti a casa dopo la mostra, la visita, quello che è. Vuoi saperne di più? Vai avanti, aggiungi un altro pezzetto, quindi non ridondanti, ma espandibili, insomma, cercando di creare una comunicazione che vada man mano ad ampliarsi se la persona vuole conoscere sempre di più. Questo è il tema, secondo me. C'è qualche altra domanda? No, vi possiamo invitare al comitato.